quello che chiediamo è di introdurre delle misure, delle procedure etiche riguardo agli appalti, agli acquisti, agli investimenti, che escludano tutte le aziende di qualsiasi paese, in qualsiasi territorio operino, che sono complici di violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, compresi crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Questo riguarda tutte le aziende, non è un provvedimento specifico sulle aziende che sono complici del genocidio in corso e dell'oppressione dei palestinesi da parte di Israele. È una presa di posizione, di principio ed etica che chiediamo alle nostre istituzioni. Iniziative di questo tipo stanno andando avanti in tutto il mondo, ci sono già parecchie città in Europa e in altre parti del mondo che hanno preso posizioni simili, appunto per l'esclusione delle aziende complici di violazioni dei diritti umani, del diritto internazionale, alcune con una specificità anche rispetto alle violazioni compiute da Israele, ma in generale diciamo c'è questa richiesta e c'è questa presa di posizione di escludere appunto le aziende che sono complici di queste violazioni. Innanzitutto, come pensate di procedere dal punto di vista pratico? Cioè, avete già richiesto incontri e se avete avuto risposte dal comune, dalla regione o dall'università? Questo tema è stato affrontato in una conferenza che è stata organizzata in marzo, se non ricordo male, dai gruppi della maggioranza in Consiglio Comunale a Bologna, in cui tra i relatori c'era Omar Barghouti, che è cofondatore del movimento di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, un movimento internazionale a guida palestinese che è stato lanciato nel 2005 da oltre 170 organizzazioni della società civile palestinese, che ha come obiettivo quello di intraprendere misure appunto di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni per imporre a Israele il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale. È un movimento non violento, è un movimento che è contro ogni forma di discriminazione, antifascismo, antisessismo, incluso l'antirazzismo in tutte le sue declinazioni, quindi incluso anche l'antisemitismo e l'antislamofobia. E in questa conferenza appunto Omar Barghouti ha fatto presente questa possibilità appunto di intraprendere misure per escludere le aziende complici. Quindi c'è un'apertura al dialogo? C'è stata un'apertura al dialogo da parte dei gruppi della maggioranza, hanno preso posizione su questo all'interno di questa conferenza e su questo abbiamo aperto un dialogo e c'è un impegno da parte di alcuni consiglieri di portare avanti queste istanze nel Consiglio Comunale. Abbiamo avuto anche incontri con alcuni consiglieri regionali e anche con loro proveremo appunto a farli impegnare su questa cosa. All'interno dell'università è un percorso che sta già andando avanti per chiedere a tutte queste istituzioni di interrompere relazioni con queste aziende complici. E invece, già che appunto siamo qui anche con rappresentanti dei giovani palestinesi, a questo proposito, sempre in relazione al coordinamento e tutto, che cosa ci puoi dire su proposte, obiettivi? Per quanto riguarda la situazione in università, noi come giovani palestinesi abbiamo costruito una mobilitazione con quasi tutte le altre realtà di collettivo studentesco Bologna, creando appunto una mobilitazione unica per la Palestina. Abbiamo provato a portare in Senato accademico delle proposte di due diligence, ethical procurement policy. Il nostro obiettivo è quello di interrompere tutti gli accordi che l'università ha con Israele, sia per quanto riguarda Erasmus e partnership con università israeliane che anche secondo il diritto internazionale si trovano su suolo illegalmente occupato, quindi fonte attiva di oppressione, e con tutte quelle aziende del comparto militare bellico, della filiera delle armi, che come sappiamo causano morte e distruzione a Gaza e non solo, aziende come la Leonardo che sono tra le prime fornitrici di armi in Israele e in tutto il mondo. Quindi il nostro obiettivo sarebbe questo. L'università non ci ha dato particolare risposta, in realtà stiamo chiedendo da mesi di esprimersi a favore del cessate il fuoco, l'università si è espressa contro il cessate il fuoco e adesso nell'ultimo senato accademico a marzo si è limitata a dire che demanda un'espressione di cessate il fuoco a enti più importanti, più influenti, quando sappiamo che l'Unibo è la prima azienda in Emilia Romagna, detentrice anche di un grande potere economico oltre che di influenza politica. Quindi l'idea del coordinamento anche in vista del 25 aprile, dove immagino ci sono cose in programma, se ci vuoi raccontare qualcosa, è nato appunto per unire studenti, associazioni, collettivi in un progetto più ampio. Sì, appunto ci sono circa 40 associazioni della parte civile della città che si uniscono nel coordinamento. Io rappresento Giovani Palestinesi, che a sua volta rappresenta tutta una mobilitazione studentesca, quindi appunto il coordinamento nasce come un insieme di tutta la società civile per la Palestina. Il 25 aprile sarà a tema Palestina e resistenza palestinese, nell'unire chiaramente quella che è stata la resistenza partigiana italiana e la resistenza partigiana palestinese palestinese, tant'è che, come sottolineavo prima nel mio intervento, ad oggi deteniamo 3 partigiani, quelli che sono veri e propri partigiani palestinesi della brigata Tulkarem, nelle carceri di massima sicurezza italiane. Quindi è importante mobilitarsi anche a questo riguardo. Noi siamo andati a Ferrara nelle ultime settimane, ci torneremo anche questo sabato perché uno dei prigionieri si trova nel carcere di massima sicurezza di Ferrara. Sì, il 25 aprile noi abbiamo preso la testa sociale del corteo come giovani palestinesi. Ci saranno vari interventi dal palco, ci saranno, certo, tanti banchetti, tante cose a tema Palestina. Questo sarà il tema del 25 aprile.